saranno due iniziative prolungate che avranno la durata di 28 giorni complessivi, due grandi campi di volontariato. Il primo si chiamerà All Worthy of Being Welcome e sarà in collaborazione col Servizio Civile Internazionale e ospiterà volontari italiani internazionali che andranno a svolgere e a sostenere le attività quotidiane del dormitorio sociale di accoglienza degna e in generale di tutto il progetto. Quindi ci saranno corsi di coformazione, autoformazione per i progetti che costituiscono la progettualità generale di accoglienza degna, e ci sarà un sostegno quotidiano alle attività del dormitorio e a quelle che sono, diciamo, le esigenze che richiede questo progetto. Il campo partirà il 6 agosto e finirà il 19 e vedrà, appunto, come ho già detto, volontari italiani e internazionali occuparsi delle attività del campo. Previsto un altro campus, con tempistiche chiaramente diverse, in progetto la ristrutturazione degli spazi a disposizione, tra i quali l'ex caserma Masini. Sì, allora si tratta di un campo che avrà la durata di 15 giorni, dal 21 di agosto al 2 di settembre, e che prevede appunto la ristrutturazione di un nuovo spazio all'interno della caserma Masini, al fine di creare degli appositi spazi per i microprogetti che si trovano all'interno di Accoglienza Degna, quali la scuola d'italiano e lo sportello Mediazione e Diritti, che si occupano appunto di seguire gli ospiti e di prepararli ad un futuro più autonomo. E in più verranno create due nuove camere, per cui quattro nuovi posti letto e una cucina. Tutto questo avverrà appunto in queste 2 settimane grazie alla collaborazione di una trentina di volontari, sia internazionali che italiani. E per questo oggi abbiamo lanciato la campagna La Call for Volunteers, che si trova appunto sulla pagina Facebook e che è dove chi è interessato può mandare la propria candidatura. Tutto questo progetto è stato realizzato in autonomia da Accoglienza Degna insieme alla BA, per cui abbiamo creato una campagna di crowdfunding che lanciamo oggi e che prevede la raccolta nel giro di circa 60 giorni, quindi fino all'inizio del campo, di 10.000 euro per poter sostenere le spese che il campo prevede.